Avventurieri, il ruscello che vi accompagna contiene circa 3.000 litri d'acqua. Ma immaginate che non esista alcuna fonte a rifornirlo e che ogni giorno, sotto il sole, evaporino 15 litri. Se l'evaporazione proseguisse senza interruzione, in quanti giorni il ruscello si prosciugherebbe completamente?